Ed eccoci tornati, siamo su PoYuIt, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Come annunciato, presentiamo adesso Veniamo dal basso come un pugno sotto al mento, un libro di Alice Diacono, edito da Battaglia Edizioni, uscito nel 2019. E dunque intanto è con noi l'autrice. Ciao Alice, benvenuta. Ciao a tutte e tutti, grazie Mario Grazie a per te, l'invito. Alice, per essere con noi. Dunque, prima di parlare con te, avrei fatto una domanda a Lorenzo Battaglia, appunto di Battaglia Edizioni, che abbiamo raggiunto a telefono negli scorsi giorni. E Battaglia Edizioni, intanto, è una casa editrice di Varia, fondata nel 2019, che pubblica saggi, narrativa, poesie, racconti, graphic novel. Si tratta di una casa editrice giovane, nel senso fondata appunto da un paio d'anni. Abbiamo chiesto a Lorenzo di raccontarci un po' la loro storia, come sono nati, cioè con quale scopo, come stanno lavorando e cosa hanno pubblicato fino ad ora. Questa è la sua risposta. Ciao Marco, e siamo nati nel 2019, quindi siamo una realtà editoriale ancora abbastanza giovane. Tieni conto che il primo libro è stato pubblicato ad aprile del 2019, deve ancora compiere 2 anni. E sì, dal punto di vista della linea editoriale, abbiamo 2 collane principali, una che si occupa, diciamo così, di Varia, anche se poi non è un termine proprio giustissimo per quello che è l'obiettivo di quella collana, e che è stata rinominata da poco Le Punte, e in quella collana abbiamo l'obiettivo di proporre al pubblico di lettori dei libri che difficilmente si possono trovare nell'editoria mainstream, quindi comunque libri belli da leggere, scritti bene, coinvolgenti e allo stesso tempo che propongano tematiche oppure stili di scrittura particolari, ecco, che tendano un po' anche allo sperimentalismo. E per quanto riguarda gli autori, lì non facciamo differenze, ma questo anche nell'altra collana di cui poi dopo parleremo. E tendiamo a pubblicare sia autori stranieri, quindi in traduzione e possibilmente inediti in Italia, ma anche autori italiani esordienti, emergenti oppure anche affermati. Già nel catalogo abbiamo autori con un curriculum letterario importante, che sicuramente ci dà orgoglio e dà anche lustro al catalogo e dà anche lustro ai giovani autori che proponiamo, perché ovviamente fare parte di un catalogo con certi nomi è importante anche per loro. L'altra collana invece è Aquilone Cosmico ed è una collana di letterature e narrative sportive. E in che senso? Non andiamo alla ricerca della biografia del calciatore di turno, ma andiamo alla ricerca di storie di sport, di tutti gli sport. E che abbiano a che fare, che si mescolino soprattutto anche a storie di vita, di momenti sociali, storici importanti. È uscito lo scorso anno il primo libro di questa collana, che è Lettere da Liverpool di Stefano Ravaglia, e parla un po' della città di Liverpool, del tifo e della squadra, di una delle 2 squadre principali della città, che è appunto il Liverpool. E quest'anno, nel 2021, abbiamo cercato di investire tanto in questa linea editoriale e a breve usciranno diversi titoli che coinvolgeranno tutti in Aquilone Cosmico. Come siamo nati? La domanda è molto, cioè, la risposta è molto, molto semplice. Siamo nati per una volontà mia ed esclusiva, dato che sono il fondatore unico di Battaglia Edizioni. Poi, subito dopo averla fondata, ovviamente ho preso dentro figure e collaboratori che mi potessero aiutare nel lavoro redazionale. E l'idea di fondare una casa editrice non nasce all'improvviso, è un po' il mio percorso di studi e quello che ho cercato di portare avanti durante gli anni universitari, facendo un master in editoria e fondando precedentemente una rivista culturale che si chiamava Rivista Una Specie, che era una rivista prevalentemente online, ed eravamo una redazione bella, bella corposa di tanta gente, di studenti di Bologna, dell'università. È stata una bellissima esperienza, sono nati rapporti importanti, amicizie importanti, però finiti gli anni universitari un po' anche il progetto è andato scemando e purtroppo oggi non c'è neanche più il sito ed è un peccato perché c'erano degli articoli davvero interessanti, si era mossa tanta gente, si parlava di argomenti contemporanei con uno stile fresco e giovane. E niente, dopo quell'esperienza mi sono riposato un attimino e poi dopo ho deciso di proseguire per questa strada e di provare l'avventura della casa editrice, che era quello che poi avevo sempre in testa, ecco. Ed eccoci di nuovo con Alice Diacono, autrice del libro che presentiamo oggi e alla quale ho un sacco di cose da chiedere, ma prima di farlo ti inviterei, Alice, come piace fare a noi qui da queste parti, a leggerci prima di tutto una tua poesia, una poesia che peraltro ti introduce e presenta assai meglio di come potrei mai fare io, peraltro in prosa, e allora ti inviterei a leggerci la tua Antropocena. Sì. Antropocena. Messaggio nella bottiglia. Mi chiamo Alice Diacono, ho 31 anni e 10 mesi. Sono nata nel 1987. Quando sono nata io, la resistenza era finita da 40 anni, il 68 da 20 e il 77 da 10. Quando sono nata io, era tutto finito. Sono arrivata giusto in tempo per la caduta del muro di Berlino, l'ascesa dell'impero Finivest, la fine della Prima Repubblica, Mani Pulite e Chernobyl. Che culo! Sono stata concepita 8 mesi dopo la catastrofe nucleare della centrale ucraina. Mia madre non mangiava verdure durante la gravidanza per paura della contaminazione. Sono nata il 9 di agosto, a 42 anni esatti, dall'inizio della nuova era geologica, il giorno in cui venne sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Il 1 agosto del 1980, il giorno prima della bomba messa dai fascisti, mia madre era alla stazione di Bologna, aveva 16 anni, stava andando al campeggio evangelico sui colli. I primi ricordi che ho del mondo sono gli adulti che festeggiano la caduta del muro, i ragazzi che scavalcano reti vicino casa per andare a bucarsi, i bambini della guerra Jugoslavia. Nel 2001 ho finito le scuole medie, ho scritto la mia prima poesia, non sono andata al G8 di Genova. Mia madre me lo impedì, mandandomi al campeggio evangelico. Lì non arrivavano notizie, solo il vecchio custode comprava il giornale e da lì lessi la mattina del 21 luglio della morte di Carlo Giuliani. Giurai che mai e poi mai qualcuno mi avrebbe tenuta di nuovo fuori dalla storia. Tornata a casa, chiesi come regalo per il compleanno una connessione internet. Scaricavo musica con Napster e registravo audiocassette VHS in cui alternavo letture di poesie a brani musicali e dialoghi immaginari. Il mio sogno era quello di fare una radio per parlare a quelli che, come me, erano svegli di notte. Pensai che dovesse avere il mio nome, quindi digitai sul motore di ricerca Radio Alice. Suonava bene. Il risultato di quella ricerca cambiò la mia vita per sempre. Ho cominciato le scuole superiori l'11 settembre del 2001. Quel giorno cominciava ufficialmente la mia adolescenza e una nuova epoca del mondo. Ho fatto in tempo a vedere come era prima e come non lo sarà mai più. Non ho visto il grunge, né il prog, né il neorealismo, né la new wave. Non ho fatto nemmeno in tempo ad arrivare per il movimento rave, che quando ero adolescente io era già degenerato. Sono arrivata in tempo però per la nascita dell'indie e del combat folk. Che culo! Ho cominciato l'università nel 2007 e mi sono laureata nel bel mezzo della più grande crisi del sistema capitalistico globale. Vivo nell'epoca più affollata della storia. Non c'erano mai state così tante persone su questo pianeta. Negli ultimi 10 anni la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,6 miliardi. Dovunque si vada nel mondo è pieno di esseri umani e di segni della loro azione. Qualsiasi cosa facciamo o scelta prendiamo, facciamo dei danni, perché siamo troppi. La demografia dice che tra 50 anni la transizione nei paesi industrializzati sarà terminata e la popolazione diminuirà drasticamente. Ma io non farò in tempo a vederlo, perché sarò già troppo vecchia o morta. Questo significa che sto vivendo nell'epoca più sovraffollata di sempre. Che culo. Gli studiosi dicono anche che nel futuro non si lavorerà più, non ci sarà più bisogno del lavoro, ci sarà la piena automazione ed esisterà un reddito universale che permetterà all'uomo di dedicarsi a ciò che più desidera, ma per ora ancora no. Siamo nel periodo di passaggio in cui è meglio essere sfruttati che non essere sfruttati per niente. Il lavoro non c'è già più, ma abbiamo ancora bisogno di lavorare. Che culo! Sono arrivata troppo tardi, quando era già tutto finito. Il buffet al banchetto della storia ha terminato. Un'epoca in cui non accade nulla, in cui, si dice, non c'è più un futuro. Probabilmente il collasso arriverà presto. Ma più probabilmente moriremo tutti prima di noia. Alcuni giorni agisco come se non avessi paura del futuro. Decido deliberatamente di far finta di essere tranquilla, di non avere ansie e incertezze. Mi aggiro per casa con movimenti dolci e lenti, contemplando gli alberi fuori dalla finestra, mentre sorseggio una tazza di tè verde che faccio finta di farmi piacere perché, dicono, faccia bene e aiuti a combattere i radicali liberi. Un'altra cosa che aiuta a combattere i radicali liberi, secondo me, è avere una prospettiva per il futuro, non vivere nel terrore, non sfruttare e non essere sfruttati, ma cose come l'autodeterminazione, la capacità di organizzarsi e la solidarietà tra gli individui, nella mia epoca non vanno di moda quanto il tè bancia. Secondo le previsioni, entro il 2050 il 50% della popolazione mondiale soffrirà di depressione. Per quanto mi riguarda, certi giorni mi sento in pace e in armonia col mondo e il giorno dopo sto premeditando il mio suicidio. Poi mi consolo, pensando agli uomini del Medioevo che si amputavano arti e si toglievano denti senza anestesia, e penso che non va poi così male. Tu, uomo del futuro, che stai leggendo queste parole, sappi, lotto tutti i giorni con i sensi di colpa per quello che mangio. Per come mi scaldo, per come viaggia, per l'aria che respiro. Ogni azione che compio diventa una scelta etica, una questione di vita o di morte, un problema di ordine morale. Sono pronta a ribellarmi all'estinzione o del tutto impotente di fronte alla catastrofe, incapace di liberarmi dallo stress quotidiano per tenere insieme i cocci, per sopravvivere tra la folla, in una società che si sta rarefacendo, in un pianeta che sta andando a pezzi. Sono qua, a guardare giorno per giorno, il termometro che si alza, il deserto che avanza, il conto alla rovescia, il limite estremo fino a dove ci ha portati la storia. O forse sono solo una che cerca di cavarsela in questo piccolo angolo di antropocene. Ed era questa Antropocena di Alice Diacono, una poesia contenuta nel suo Veniamo dal basso, come un pugno sotto il mento, un libro molto ispirato sicuramente e anche molto vario nelle forme, direi innanzitutto, perché vi si trovano poesie di generi diversi, oltre infatti a prose brevi, racconti, citazioni, illustrazioni, però vario anche, direi, oltre che nelle forme, anche nei contenuti. Infatti, nella Letta, questo libro viene presentato come un viaggio lungo 10 capitoli, dove si parla di presa di coscienza della propria femminilità, respiro, cadute dai pattini, buchi neri, incapacità di amare, antropocene, file alle poste, precariato emotivo ed economico, sradicamenti, clamori, pensamenti, euforie, disforia, morti e rinascite. C'è in effetti tutto questo e beh, anche molto altro in questo tuo libro che a me è piaciuto davvero tanto e che ti inviterei a presentarci un po' nella sua complessità. Che testi vi sono raccolti, scritti quando e anche che tipo di ordine hai provato a dare loro? Ma allora, questi testi sono stati scritti nell'arco di praticamente 15 anni, io scrivo da sempre, e piano piano si sono accumulati e io ho cominciato scrivendo poesie e per anni ho fondato una fanzine che si chiamava Idioteca, con degli amici qua di Bologna con cui erano più che altro compagni dell'università, di varie facoltà, avevamo gente dell'accademia che si occupava della parte grafica e poi noi di lettere che scrivevamo, ma anche gente di scienze politiche, di antropologia e abbiamo creato questo gruppo poetico insieme per anni. Poi piano piano le strade si sono divise nel 2012. Abbiamo stampato l'Idioteca per ben 4 anni, che per una fanzine è già una vita lunghissima. E infine, sì, dopo quando le nostre vite si sono, diciamo, poi hanno preso le loro strade, io mi ero arresa e non, sai, cominciavo a crescere, avevo finito l'università, quindi si cominciava a entrare in quell'ottica tipo adulta, no? Per cui continuare a scrivere sembrava una velleità, una pura velleità, e mi ero un po', boh, disillusa, diciamo così, avevo smesso di scrivere per un po'. Poi, quando sono andata in Olanda, ho cominciato a scrivere le cose che ho imparato in Olanda, che sono contenute anche queste nel libro, e sono un resoconto sostanzialmente del mio tirocinio in Olanda, ma più diciamo dal punto di vista dell'impatto culturale con il paese, con gli olandesi. E quello che scrivevo piaceva molto, banalmente, semplicemente facevo i miei resoconti su Facebook e le persone hanno cominciato a chiedermi di scrivere ancora. E poi ho sempre continuato a scrivere poesie nel frattempo, poesie che hanno cominciato a vincere dei premi. E allora a un certo punto ho deciso di raccoglierle in un libricino autoprodotto che ho stampato con la copertina serigrafata XM24, che purtroppo, come penso sappiate, non c'è più, però era il nostro grande, come si può dire, centro di raccolta di tutte le forze creative, politico-creative della città. Certo. E questo libricino ha cominciato a girare e nonostante fosse autoprodotto, girava molto bene e hanno cominciato a invitarmi ai festival dove io ho cominciato a fare questo reading e quindi a leggere le mie poesie insieme ai brani musicali che sono raccolti anche qua in una playlist alla fine del libro. E piano piano si accumulavano sempre più pezzi scritti, sempre più pezzi scritti. E non avevano una logica perché, appunto, venendo dal mondo delle fanzine, del punk, io non sono mai riuscita a scrivere in maniera costante, come dire adesso mi metto lì e scrivo un romanzo, ok? Questo non rispecchiava la mia vita, che era intrinsecamente precaria, ok? Facevo mille lavoretti nel frattempo per mantenermi, non capivo dove volevo stare nel mondo, cosa fare della mia vita. E quindi questi pezzi sono nati così, in maniera estemporanea, come delle piccole perle, delle piccole gemme che ogni tanto si accumulavano dentro di me e a un certo punto uscivano. E fino a che il libricino è arrivato nelle mani appunto di una grande casa editrice italiana, abbastanza conosciuta, molto politicizzata, a cui piacevano molto le mie poesie e mi avevano detto che volevano pubblicare un libro, cioè se volevo pubblicare con loro, io ero alle stelle ovviamente, però mi hanno anche chiesto di renderlo un racconto, diciamo, in prosa, che avesse più diciamo, un capo e una coda. E questo mi ha messo parecchio in crisi, devo dire, ci ho provato per un anno. È stato drammatico perché alla fine non ci sono riuscita, mi sembrava di snaturalizzare quello che erano appunto dei piccoli pezzi di un puzzle. E E quindi alla fine mi sono arresa e gli ho detto: guardate, scusate, ma non ci riesco. Con tanto di miei amici che mi dicevano: ma tu sei pazza, stai rinunciando all'occasione della tua vita. E infine è arrivato nelle mani di Lorenzo di Battaglia Edizioni, che aveva pubblicato un libro quando l'ho conosciuto io, una minuscola casa editrice di Bologna mai sentita. Lui era un giocatore di calcetto a 5, che si era messo da parte i soldi perché il suo sogno era aprire una casa editrice, e sostanzialmente l'ha visto e mi ha dato completamente carta bianca. Io gli ho detto: guarda, vorrei fare una cosa tipo completamente, diciamo, sempre sullo stile fanzine, quindi con illustrazioni e pezzi, pagine sporche in mezzo, citazioni, aforismi, che probabilmente non ha una logica editoriale molto vendibile, ecco, diciamo così. E lui mi ha detto: io ci credo, fai quello che vuoi, ti do carta bianca, scegli tu chi vuoi che ti faccia le illustrazioni, fai tu. E così ci siamo messi lì e per un anno abbiamo selezionato tutti questi pezzi da una mole molto più grande. Il libro comunque è di quasi 200 pagine, ma ce n'erano molti di più, tra cui li abbiamo selezionati. E poi lui mi ha detto: ok, adesso però gli dobbiamo dare un ordine. E io ho deciso di dargli questo ordine qua di 10 capitoli, che sono appunto, non sono in ordine cronologico, ma sono per macrotemi. Macrotemi che toccano un po' tutte le aree del mio viaggio, anche personale, del mio viaggio di formazione. E che sono appunto il tempo di un bidet, hardcore zen, amare, non amare, lavoro, non lavoro, lavoretti, viaggiare, respirare, scrivere, idioti, antropocena, morire, risorgere e alla fine la playlist. Ed è nato questa specie di diario, di raccolta, che ha i pezzi sono messi, diciamo, in modo che il risultato finale abbia un saliscendi emotivo tra un pezzo e l'altro, che non crei pesantezza, ma che crei dei contraccolpi. Emotivi, diciamo. Sicuramente, almeno per me che l'ho letto, così è stato. Nessuna pesantezza e decisamente contraccolpi. Anzi, intanto grazie per questa risposta così esaustiva. Una domanda di passaggio, perché se no poi anticipi anche i temi, che è la cosa invece che ti vorrei chiedere subito dopo. Ma tutte le poesie del tuo primo libretto autoprodotto, che infatti, se non sbaglio, è proprio Il tempo di un bidet, che è così che si intitolava, sono tutte confluite in questa nuova pubblicazione? Sì, ma era un libricino minuscolo, era proprio tipo un libercolo in A6, quindi erano tipo 7 pagine, Sì. E 7-8 pagine, scritto piccolo piccolo, quindi sì, ci sono tutte. sono quelle della sezione omonima adesso, giusto? No, sono sparse Ok. per tutte le varie sezioni, sì. Bene. Sì, allora andiamo, direi, infatti, adesso sui temi, perché dei molti temi di cui un po' ci hai accennato e che sono contenuti in questo libro, ve ne sono alcuni su cui mi piacerebbe soffermarci un po'. A cominciare magari da quello che definirei il tema politico e che pervade un po' tutta la raccolta, come abbiamo anche già sentito. Fra i tuoi testi, ad esempio, vi sono quelli dedicati alla fanzine Idioteca, di cui ci hai parlato, che avevi fondato anni addietro a Bologna, ma anche parli della tua appartenenza al movimento dell'Onda. C'è una poesia in morte di Mark Fisher, ce n'è una scritta in occasione del centenario della rivoluzione d'ottobre, ma il tema politico a me sembra che sia quasi sempre presente, anche in situazioni, fra virgolette, minori, come, non so, le molte immagini della gioventù precaria a cui accennavi, ma direi in generale, di tutti quegli spaccati di popolazione su cui soffermi lo sguardo. Dunque, un'ottica politica parecchio presente nel libro e immagino anche nella tua vita, Alice. Sì, infatti diciamo che io penso appunto che il personale sia sempre politico, anche quando si sta parlando delle cose più intime, c'è sempre qualcosa di politico e questo per me è imprescindibile quando scrivo. la rabbia che c'è dietro alcuni pezzi che ho scritto, magari anche se non parlano in maniera esplicitamente politica, è una rabbia politica. E sì, e anche appunto, non voglio dire che ci sia un intento didattico dietro, però anche per esempio il pezzo quello su Mark Fisher che citavi, l'ho scritto sull'onda di un'emozione molto forte che era quella appunto della morte di chi aveva parlato di come la depressione ormai sia un fattore anche politico, no? La depressione funzionale che in questo momento ormai è dilagata poi con la pandemia. Io quando ho scritto è uscito nel dicembre 2019 questo libro, quindi era proprio prima della tempesta, diciamo. E adesso ne stiamo vedendo veramente con i nostri occhi le conseguenze. Ormai questa cosa è, credo, sotto gli occhi di tutti, insomma. Quindi sì, anche quando parlo di depressione o di qualsiasi emozione è sempre in chiave anche politica. Questo perché sia appunto sempre fatto diciamo vita di movimento, tra virgolette, poi anche perché sì, ho fatto parte del movimento dell'Onda, ma prima ancora vengo da una comunità evangelico-pentecostale e da una famiglia di persone venute dal sud, nel nord, e povere, misere, e quindi diciamo che poi tutto quello che è venuto dopo, tutte le mie scelte sono state scelte politiche, perché sono state scelte fatte per allontanarmi da una situazione sostanzialmente di fondamentalismo religioso in cui sono stata cresciuta e che poi mi ha portato anche ad avere certe idee politiche radicali, e però ho sempre dovuto fare attenzione a non poi trasporre questo mio modo di vivere in maniera, cioè la mia educazione fondamentalista, di non poi trasporla nella politica, perché poi c'era sempre stato questo rischio, insomma. Sì, Chiara, è molto interessante anche questa risposta. Mi verrebbe da chiederti ancora su questo, però non vorrei deviare troppo né allo stesso tempo evitare di avere spazio per le domande che ti vorrei fare dopo. Quindi, se sei d'accordo, ti inviterei a fare subito una seconda lettura, perché mi pare si sposi anche con ciò di cui si sta parlando, con la politica nella vita quotidiana. Ovvero la seconda poesia che avevi pensato di leggere per oggi, cioè il Pakistano. Sì, questa l'ho scritta appunto in un momento di massima precarietà in cui facevo lavoretti di merda e venivo pagata di merda e quindi ero parecchio incazzata. Però volevo appunto descrivere questa sensazione, soprattutto nella Bologna, città del cibo che stanno creando, no? Questo mito di Sì. Bologna, paradiso del food and drink e la Disneyland del cibo, che ha provocato così tanti sconvolgimenti anche a livello politico nella nostra città negli ultimi anni. E infatti si intitola Il Pakistano. Vi prego, aiutatemi, sono disoccupata, non ho un lavoro e ho due figli. Anzi no, non ce li avrò mai due figli, perché emotivamente sono un disastro. Devo pagare lo psicologo, mi prendono a lavorare nei ristoranti e poi mi lasciano a casa, mi danno la camicia nera o bianca, con scritto Osteria d'Amaro, Pizzeria da Pino, Banco 32, Il Saraceno, e poi, dopo un po', non mi chiamano più. Anzi, mi chiamano e mi dicono: riportaci la camicia. E io dico: ma perché diamine mi avete dato la camicia se non mi volete dare da lavorare? A Bologna ci sono i topi, ce n'è un sacco. E in tutte le cucine, la famosa cucina emiliana, parte della gloriosa cucina italiana, dei cuochi stellati, griffati, acclamati, teleospitati, ci sono in realtà dei pakistani e dei bengalesi che eseguono le ricette dei cuochi famosi, dietro, da soli, nelle cucine, mettendoci un sacco di burro e di dado Knorr, bevendo birra o vino scadente per reggere i ritmi. E È perché non possono permettersi la coca come i veri chef. E li chiamano tutti con nomi un po' veri e un po' no, tipo Ali, Ismael, Babu, Ashmer, Youssef diventa Giuseppe, Nirad, Manish che diventa Mani e via dicendo. Si modificano a seconda della provenienza dei padroni dei locali. Poi, ai bicchieri e alle pulizie, ci stanno le Moldave. Con i loro capelli biondi, spenti e impeccabilmente raccolti, e i loro sguardi sempre così tristi, che io ogni volta penso a una cosa che ho letto da qualche parte, che la Moldavia è il paese più triste del mondo, con il tasso di felicità pro capite più basso del mondo. E allora spesso io cerco di aiutarle con i bicchieri o a tirar sulle sedie, che dico, già la vita è stata crudele con te che ti ha fatto nascere in Moldavia. Che poi non è nemmeno come in Africa, che ad esempio ti dicono sempre: vedi gli africani? Loro non hanno niente, ma sorridono sempre, cantano, ballano. E invece no, i Moldavi non hanno niente e sono pure tristissimi. Allora io le aiuto sempre le Moldave al ristorante con i bicchieri e le lavastoviglie. E poi ci siamo noi, le cameriere. Che dobbiamo essere sempre giovani e scattanti e possibilmente dall'aspetto mediterraneo, in modo da soddisfare quell'idea che i turisti russi o cinesi hanno di un ristorante italiano dove venire a mangiare spaghetti bolognese. Un'altra cosa che ho imparato è che nelle cucine dei ristoranti italiani i vegetariani sono più discriminati dei gay, questo è sicuro. Le cose cattive che ho sentito dire sui vegetariani sono incomparabili. Per non parlare dei vegani, considerati meritevoli di ogni sopruso cosmico e gastronomico. Insomma, se sei gay e vegetariano, sei fottuto. I celiaci e gli intolleranti invece la fanno da padrona. Sono le minoranze alimentari di moda del momento, in linea con la fobia sociale da farine bianche e zuccheri raffinati. Passando lo spazzolone dall'angolo di marciapiede dove sono seduta a scrivere. È meglio che vada. Ah, mi ha chiamata una casa editrice da Roma oggi, dicendomi che volevano pubblicare le mie poesie, che gli erano piaciute un sacco e che bisogna incoraggiare i giovani talenti e che oltre a metterle in varie raccolte, ne avrebbero stampata una a mia scelta su un papiro che poi avrebbero arrotolato e messo in una bottiglia di vetro per esaltare l'aspetto tradizionalmente romantico della poesia, hanno detto. Io ho detto, ok, sarebbero 300 euro, hanno detto loro. Ma io non ce li ho 300 euro, ho detto. Faccio la cameriera, anzi, non faccio neanche la cameriera per davvero. Mi danno la camicia e poi me la fanno riportare indietro. Allora, alla prossima, hanno detto loro. Dedicata al cuoco pakistano bengalese ignoto, contemporaneo eroe sacrificale della tradizione culinaria italiana. E da questa poesia, da il pakistano, mi sembra che ci si possa anche agganciare per un altro tema forte del libro, ma del resto anch'esso politico, che è quello del genere. Beh, in alcuni testi della tua raccolta parli della tua acquisizione appunto di consapevolezza di essere donna e di cosa significhi esserlo in questa società. E parli dello sviluppo tuo, insomma, di una tua sensibilità in questo senso. Ecco, a me pare che questa sia una delle tematiche centrali, nel senso dislocate dovunque nel libro, e che pure questa svolgi a volte in modo un po' più sotterraneo, altre, come ad esempio nelle prose Lo sapevano tutti o il questionario di gradimento, mettendola invece proprio in primo piano. Peraltro siamo ancora nella settimana dell'8 marzo e insomma, direi, cosa ci dici al riguardo? Ma sì, anche questo diciamo che ha fatto parte di una mia presa di coscienza, appunto, della mia crescita personale, essendo appunto cresciuta in una comunità dove mi dicevano che la donna doveva essere sottomessa all'uomo, non avevo mai preso consapevolezza di quanto io in realtà mi sentissi inferiore in quanto donna nella società, e alcune cose che davo per scontate poi hanno cominciato a essermi chiare, e questa mia presa di coscienza è avvenuta di pari passo con, diciamo, una presa di coscienza collettiva che è stata un po' quella del MeToo in poi, diciamo, quindi dal 2017 in poi, in cui, diciamo, è arrivata la nuova ondata femminista, no? Ecco, io non mi ero mai considerata femminista, forse non avevo neanche ben chiaro cosa significasse. Era una cosa su cui semplicemente di cui non avevo coscienza. E piano piano invece hanno cominciato a emergere tutte queste differenze, insomma, anche di come questa situazione poi influiva anche sulla mia autostima, sulla mia percezione di me, individuo, all'interno del mondo, ok? E non solo di me come scrittrice, perché appunto quello che hai citato tu, il pezzo lo sapevano tutti, parla anche di un'esperienza di una scrittrice, semplicemente di una ragazza che vuole scrivere, no? In cui banalmente si sono imbattute centinaia di migliaia di donne che hanno magari voluto provare a uscire dal sentiero battuto che la società gli aveva preimpostato già all'inizio della nascita, no? E che quindi, come dire, se tu vuoi uscire da questo sentiero battuto, poi quello che ti capita te lo sei andato a cercare, no? E quindi piano piano ho realizzato tutte queste cose e semplicemente per me poi si concretizza nella mia scrittura, ad esempio parlando anche di masturbazione femminile o di cose che per me sono assolutamente naturali. E che però nella letteratura italiana contemporanea, bene o male, soprattutto anche nella poesia, non sono ancora così frequenti. E questo basta per, appunto, a volte intravedere il femminismo nei miei testi, quando in realtà per me è una cosa del tutto, cioè, abbastanza naturale, semplicemente ne parlo come individuo. Il fatto di essere una donna crea questo, diciamo, come si può dire? Valore aggiunto in più forse che gli altri ci vedono, ok? Però per me è una cosa assolutamente naturale che viene come conseguenza della mia presa di coscienza e quindi, essendo io una scrittrice, poi ne scrivo e questo lo riflette. Certo. Beh, facciamo adesso però una pausa, un intervallo, perché è il momento giusto, mettendo una canzone che ho chiesto a te di scegliere e che hai preso, penso, giusto dalla tua playlist, quella che sta alla fine appunto del libro di cui ci parlavi prima. E che dici? Ti va di annunciarla? Sì, Atomic Bongos di Lidia Lance. A fra poco. Get that beach party bigger. rieccoci, siamo sempre su PoYuIt assieme ad Alice Diacono, autrice del libro che stiamo presentando, Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento. Alice, un terzo tema di cui vorrei parlare con te in modo un po' più specifico è quello della tua poetica. Mi sembra che non ti tiri indietro di fronte a riflessioni sul tuo modo di scrivere e sugli argomenti che scegli, e non solo qui adesso a parole, ma anche per iscritto, visto che nel libro dai una definizione della tua poetica, che chiami Hardcore Zen, in una pagina che sta fra il serio e l'ironico, e che è una pagina che a me ha colpito e divertito parecchio, e che peraltro introduce una sezione omonima. E invece un'altra sezione del libro, come ricordavi all'inizio, si intitola appunto Scrivere, anche lì ci sono riflessioni sullo scrivere. E allora, sei Hardcore Zen? guarda, sì, cioè, l'hardcore zen per me è il mio modo di scrivere, ma anche di esprimermi in generale. Cioè, è un modo molto diretto che entra subito, diciamo, che va subito al nocciolo della questione, ok? E non faccio tanti giri di parole, e il mio modo di scrivere, penso che arrivi a tutti, cioè, nel senso. Quando io scrivo, penso, lo può capire anche mia madre che è alla terza media, ok? Lo può capire anche chi non frequenta i circoletti di poesia e chi non è abituato a leggere la poesia. E questo un po' è nato dal fatto che sono nate cioè le mie poesie nascono come spoken words, ok? Cioè io me le immagino già parlate. E quindi ovviamente hanno molto del linguaggio parlato, ok? E poi anche dal fatto che ho incontrato tantissima gente che io stimavo nella mia vita che mi diceva: ah, guarda, no, quando io dicevo cosa fai? Scrivo poesie. No, guarda, io la poesia proprio mi fa schifo, cioè proprio non la capisco, proprio la odio. Ma proprio tanta gente, ma anche gente, diciamo, colta, intellettuali, così. E quindi ho visto proprio un'avversione verso la poesia che ho detto: caspita, di questi tempi invece ce ne sarebbe un sacco bisogno di poesia, perché la gente odia la poesia? Forse mi sono detta, forse perché la poesia si è chiusa un po' in certi criteri, in certi stereotipi del poeta triste, appunto, che si rivolge solo ad altri animi sensibili, e con la musica di violino dietro. E quindi ho cercato invece di esprimere la mia poesia, che sostanzialmente è una poesia punk, perché io scrivo le poesie come se fossero dei pezzi punk. Il mio sogno è sempre stato quello di avere un gruppo punk, ma siccome non ho mai imparato a suonare uno strumento e non ho mai avuto modo poi di entrare a far parte di un gruppo, il mio modo di scrivere poesie è quello, cioè devono arrivare appunto come un pugno sotto il mento. E hardcore zen per me è proprio questo, cioè hardcore perché esprimono la violenza della vita che viviamo tutti i giorni, okay? Della vita del tardo capitalismo che tutti viviamo, e però zen, perché devono contenere in sé dei piccoli momenti di illuminazione che squarciano il contingente, che squarciano il grigio del realismo capitalista in cui siamo immersi e da cui sembra non ci sia via di scampo. E invece in questi piccoli lampi nel quotidiano possiamo trovare, non dico la speranza, perché mi sembra un parolone, ma almeno un po' di, così, un po' di conforto, forse. Sì. Beh, e se Un ti po' di dovessi. luce. Sì, aggiudicato per luce. Ma e se ti dovessi chiedere se ci sono, insomma, quali sono stati magari i tuoi ispiratori, le tue autrici, autori che ti hanno. Le autrici o gli autori che ti hanno condizionato, ispirato più degli altri? Guarda, sicuramente nella mia adolescenza Cesare Pavese, Ungaretti, mi piaceva tantissimo Ungaretti quando avevo 12 anni, Certo. ma anche Vasco Rossi, e poi sono arrivata anche a Chandra Livia Candiani, ma soprattutto Wisława Szymborska, che scrive una poesia molto, come si può dire, quasi di socialismo reale, no? La Szymborska rispecchia proprio il socialismo reale degli anni in cui è vissuta, e scrive poesie concrete che parlano di cose concrete in una maniera però bellissima, insomma, che a me ha sempre affascinato. E poi Mariangela Gualtieri e banalmente anche, se posso dirlo, i Simpson, che io, di cui io sono sempre stata una Certo. grande fan. E sembra stupido quando lo dico, ma in realtà il fatto di, cioè, per esempio, una puntata dei Simpson che parte da un evento iniziale e ti porta poi tutto da un'altra parte durante la puntata, no? Cioè, non è mai una conseguenza logica, causa effetto, ma fa tutti dei suoi sviaggioni quasi psichedelici. Ecco, sicuramente anche quello è stato uno dei miei modelli. E poi sì, tanta psichedelia, tanta musica, perché io anche ho sempre stata appassionata di musica, ho sempre scritto di musica, quindi c'è dentro un po' di tutto, appunto, dalla musica punk alla no wave, anche diciamo l'indie, non quello di adesso, ma dei primi anni 2000 e via dicendo. Bene, grande. Beh, allora è il momento dell'ultimo tema di cui vorrei parlare un po' con te, che è quello delle città. Nel libro ci sono nomi, menzioni diverse città, così a memoria dalla nostra Firenze a Tirana, però le tre città probabilmente più presenti di tutte sono Asti, la tua città natale, Amsterdam, di cui ci hai prima parlato, dove hai vissuto. Ma soprattutto c'è Bologna. Allora, che città ti vorrei chiedere sono queste? O meglio, che città sono per te? Allora, diciamo che nella mia psicogeografia interna, Asti rappresenta la provincia, ok? Proprio la provincia meccanica del triangolo industriale dove c'è terra bruciata di tutto, in cui sono cresciuta. Una città grigia, nebbiosa, dove c'è il nulla, il vuoto assoluto, una città satellite di Torino, appunto, dove le persone cercano di colmare i vuoti con anche il fondamentalismo religioso in cui la mia famiglia poi mi ha cresciuta e da cui io poi sono scappata e sono venuta a Bologna, che per me è stato la scoperta del mondo, perché nella comunità in cui vivevo io, che era molto chiusa, c'eravamo noi e poi c'erano quelli del mondo. E io, essendo costretta a vivere in questa comunità, non potendo avere molte frequentazioni al di fuori di essa, ho scoperto il mondo quando sono venuta qua a Bologna e ho scoperto cosa voleva dire vivere in una città in cui comunque c'era una vita culturale, in cui c'era vita, in cui io potevo fare quello che volevo. In cui potevo scegliere dove andare, con chi stare, cosa fare. E però, d'altro canto, ho scoperto anche che il mondo della cultura o anche il mondo accademico non erano quel mondo utopico che mi ero immaginata, ma che poi, piano piano crescendo, di cui mi sono accorta di tutti i lati, diciamo, anche negativi che ci sono anche in quello. E quindi è stata sì, la scoperta del mondo. E continua a essere la mia città, la città che ho scelto in cui vivere, la città dove voglio vivere, anche nonostante tutte le contraddizioni che porta con sé. E Amsterdam in realtà è stata un periodo di passaggio ed è contrapposta a Praga in realtà, perché io ero stata un anno a Praga prima di andare ad Amsterdam, dove ero andata a fare l'Erasmus a Praga, poi ho deciso di rimanere lì per più tempo perché mi era piaciuta tantissimo ed è veramente una città, era perché adesso anche Praga è stata parecchio gentrificata, però all'epoca quando sono andata io era ancora una città molto bohemienne e quindi mi ha permesso di fare quella vita bohemienne che avevo sempre sognato e quando sono arrivata ad Amsterdam invece mi aspettavo altrettanto e invece ho trovato una città che con una mentalità profondamente capitalista, profondamente, cioè è proprio la culla del capitalismo. Ed è così, cioè proprio l'etica protestante e il capitalismo è stato scritto apposta, cioè proprio guardando gli olandesi praticamente, è un'analisi psicologica della collettività di quei paesi, diciamo, nordici, di matrice calvinista protestante. E quindi in realtà è stato, cioè non è stata bellissima l'esperienza ad Amsterdam, ma me la sono cavata con una buona presa per il culo della situazione, un'analisi, diciamo, ironica della situazione, ecco. E dei ciclisti. E Allora, per la lettura poetica e prosaica di tutte queste città, rimandiamo al tuo libro, ma prima di salutarci e di chiederti, Alice, un'ultima lettura e anche di introdurre l'ultima canzone, abbiamo fatto ancora una doppia domanda a Lorenzo Battaglia, di cui ci hai raccontato qualcosa anche tu, appunto l'editore che ti ha pubblicato nel dicembre del 2019. Abbiamo chiesto nei giorni scorsi a Lorenzo com'è andata dal loro punto di vista, di giovani editori indipendenti, questo ultimo anno difficile, questo anno in cui non si è quasi mai potuto organizzare eventi in presenza, eppure le librerie e in generale i luoghi di rivendita hanno conosciuto lunghi periodi di chiusura e di difficoltà. E poi, visto che in ogni caso stanno comunque resistendo, abbiamo chiesto loro cosa hanno in programma per il prossimo futuro, quali nuovi libri, quali nuove proposte, e questa è la risposta. Quest'anno tutto sommato è andata bene, dai, non mi lamento, magari rispetto anche ad altri settori, il nostro è stato un po' meno sfortunato, perché le librerie sono state completamente chiuse nella prima parte della pandemia, poi dopo, senza poter fare eventi, però hanno riaperto, ecco. E la prima parte l'ho sofferta tanto anche a livello di rendicontazioni. Io ricevo rendiconto da distributore ogni 2 mesi e sì, insomma, non è stato un bel momento, ecco. Però poi l'ultima parte dell'anno ho recuperato, ecco. E comunque la cosa più difficile in questo periodo, almeno per me, è quello di fare un bilancio reale, ecco, perché non ti rendi mai conto se il fatto che vada bene o vada male sia dovuto a delle tue mosse azzeccate, giuste o sbagliate, oppure se appunto è un po' tutto caotico causa questa situazione imprevista, imprevedibile, ecco. E niente, insomma, però il nostro progetto continua secondo i piani e niente, speriamo che si possa ritornare più o meno alla normalità il prima possibile. Per normalità, a livello di insomma, parlando da editore, intendo il poter ricominciare a fare presentazioni ed eventi, perché quello sicuramente per noi è un indotto molto, molto importante. Per quanto riguarda le novità, il 2021, come accennavo, lo abbiamo investito per allargare le proposte nella collana di Aquilone Cosmico di narrativa sportiva. E, i prossimi libri che usciranno sono qua, due libri che usciranno quasi contemporaneamente. E uno è L'Elogio del Gregario, dove si parlerà della figura mistica ed epica del Gregario nel ciclismo, ed è a cura di Marco Pastonesi, che è una delle firme per quanto riguarda il ciclismo e il rugby più importanti che abbiamo in Italia, ed è ex editorialista della Gazzetta dello Sport, quindi per noi è bellissimo averlo nella nostra squadra per questo progetto. E poi l'altro invece è Transagonistica di Gabriele Galligani, tutt'altra storia, perché Gabriele è un autore esordiente, molto giovane, e poi questo libro è un romanzo, ecco, è un romanzo che parla di una storia molto particolare. L'argomento che fa da sfondo è il calcio ed è la storia di questo giovane talento che arriva all'apice della sua carriera, ma proprio quando è all'apice decide di mollare tutto perché dentro di lui sente l'esigenza di dover cambiare il proprio sesso. E quindi è un libro che coinvolge i temi LGBT con invece ambienti omofobici e maschilisti come il calcio. È un romanzo molto bello che consiglio a tutti, davvero. Ed eccoci di nuovo assieme ad Alice Diacono per l'ultimo momento di questa presentazione del suo Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento. Se, come sono sicuro, vi è piaciuta, vi ricordo, anzi no, vi annuncio in grandissima anteprima che l'abbiamo invitata a Firenze per il Festival di Letteratura Sociale che si sta organizzando per il sesto anno nel Chiostro della Badessa in via Santa Reparata. Evviva! Evviva, evviva davvero, sperando che si possa davvero fare l'ultimo fine settimana di maggio, se non sarà quello, comunque sarà al più presto. daremo sicuramente conto di tutto questo, come sempre con Radio Wombat seguiremo in diretta tutto quanto, insomma ci sarà modo di parlarne e di ascoltare anche i tuoi reading performati, perché in effetti Alice tu leggi con accompagnamenti musicali, vero? Sì, appunto, come dicevamo, la playlist che c'è in fondo al libro dà uno spunto per avere un brano quasi per ogni pezzo del libro, quindi proprio ogni poesia può essere ascoltata con un brano. E allora, per lasciarci ancora un po' di acquolina, io ti inviterei a fare un'ultima lettura per oggi di una tua poesia e poi ad annunciare la canzone che segue, che è quella con cui concludiamo questa radio presentazione, ringraziandoti tanto per essere stata con noi e dicendoti semplicemente a presto. Grazie a voi. Vorrei morire con della musica. Possibilmente, dopo aver bevuto una tisana al limone. Possibilmente, mentre piove una pioggerella leggera. Personalmente, eviterei il dolore, separandomi lievemente dal mio corpo morto. Vorrei che un gattino venisse a leccarmi la mano. E mi agolasse sentendola fredda e che non ci fossero macchinari di ospedale intorno, né lumache di quelle senza guscio, che mi fanno parecchia impressione e si mangiano sempre le verdure nell'orto. Poi la luce dovrebbe essere grigia e fioca come quella dell'Olanda e le persiane semichiuse e mia mamma non dovrebbe essere lì, già da molti anni. E che già da molti anni io abbia superato il dolore per la sua morte. Vorrei almeno accorgermi che sto morendo. Cioè, magari non tutto d'un botto, ma piano piano, come una cascatella di goccioline che si ricongiungono al fiume. Possibilmente vorrei sprigionare un piccolo arcobaleno. O spirare una piccola aurora boreale e che qualcuno che sta andando di corsa a prendere il treno lo vedesse e si fermasse un attimo a guardare. Mi piacerebbe ci fosse un ponte e che succedesse verso l'ora del tramonto. Che non ci fosse paura. Che anche se sarò sola, sarò sazia di aver collezionato abbastanza momenti con il sole in faccia. Con le gambe che tremano per l'emozione, abbastanza concerti da meritare una recensione, aver scoperto cosa ci sia nei buchi neri, logorato molte paia di scarpe, saperne qualcosa di più della fisica quantistica, percorso sentieri più o meno sconosciuti, riempito abbastanza quaderni o file Word da pubblicare. Poi vorrei che tutto diventasse come quella volta che camminavo lungo la statale per tornare a casa. Pioveva ed era buio e fangoso e caddi nel fosso del guardrail con i camion che mi passavano di fianco. Senza senso, umido e miracoloso. E grazie di nuovo allora ad Alice Diacono per essere stata con noi. Il suo libro è Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento. Per chi lo volesse acquistare in attesa della sua presenza a Firenze, oltre che ordinarlo in libreria, possibilmente una libreria indipendente, può rivolgersi, può farlo direttamente come ho fatto io sul sito battagliaedizioni.com. Grazie di nuovo Alice e quale canzone ci sentiamo per salutarci? Direi Kebab Traume dei DAF. A Aggiudicato. A presto. presto. Ciao a tutte e tutti. Yes.